Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno e bentrovati da Enzo Argante, il traghettatore. Viaggio nel weekend, appuntamenti del weekend dell'economia sociale. Il primo suggerimento che vi diamo è, per chi vive a Roma, di fare una puntata alla città dell'altra economia. Già il titolo la dice lunga sulle caratteristiche. È un evento organizzato dall'AIAB, comincia alle 10 del mattino di oggi e fino al tramonto sarà attivo. Si parla di tutti i temi che compongono o che comporrebbero l'altra economia: finanza etica, turismo responsabile, agricoltura e cucina biologica, commercio ecosolidale, riuso, riciclo, energie rinnovabili e così via. E l'indirizzo, ve lo ricordo, è l'ex mattatoio del Testaccio a Roma. C'è una settimana ancora di tempo per aiutare a salvare la vita di 350 bambini cambogiani. Questo è possibile grazie all'iniziativa della Fondazione Aiutare i Bambini. Il numero che vi sottolineiamo è 45508. Attraverso un SMS sarà possibile sostenere questa iniziativa, che ci spiega adesso Francesco Caruso. Buongiorno. Buongiorno. Lei è in questo momento a Hong Kong, ma la sua attività si svolge prevalentemente in Cambogia, da cui, dove? Dall'ospedale di Siem Reap è partita questa iniziativa. Dall'ospedale di Siem Reap, sì, che dove ci sono i famosi templi di Angkor. Ci spieghi questa iniziativa, così la sosteniamo tutti molto più volentieri. Allora, l'ospedale per bambini di Angkor è uno degli unici due ospedali per bambini di tutta la Cambogia. La Cambogia è uno dei paesi più poveri dell'Asia e purtroppo ancora porta i risultati di 20 anni di guerra e di tormenti dei Khmer Rossi. Questo ospedale è un ospedale gestito da cambogiani, in cui lavorano oltre 150 tra medici e infermieri cambogiani, e in cui moltissimi volontari, anche italiani, vanno a insegnare. Quindi un ospedale in cui i medici imparano e poi ovviamente lavorano con i bambini. Oltre 130.000 bambini passano tutti gli anni dall'ospedale, e fino all'anno scorso, per tutti i bambini malati di cuore, non c'era nessuna prospettiva, perché in Cambogia assolutamente in nessun posto potevano essere operati gratuitamente. Dall'anno scorso la Fondazione Aiutare Bambini sostiene quindi questo progetto con l'ospedale di Angkor per formare chirurghi cambogiani, che hanno imparato molto velocemente, devo dire, perché ormai quotidianamente si riescono a fare operazioni a cuore chiuso e si fanno anche decine di operazioni a cuore aperto, che sono davvero un risultato incredibile ed una cosa che dà un orgoglio a tutti, ai bambini, ai genitori, al personale dell'ospedale e a tutta la Cambogia. Ci sono oltre 2.000 bambini in lista, e quindi ovviamente parliamo di numeri che sono molto molto grandi. Solamente appunto dell'anno scorso l'ospedale ha cominciato a offrire questo servizio, e quindi in un anno 2.000 bambini si sono presentati, se ne presenteranno purtroppo tanti tanti altri. Ma devo dire che con il nostro progetto noi cerchiamo di aiutare appunto 350 bambini, ma soprattutto a formare tutto il personale e poi a comprare i macchinari che servono. Regalare la vita ad ognuno di questi bambini significa regalare la vita anche a tutta la famiglia, perché queste famiglie sono poverissime e si indebitano sempre di più per cercare delle cure che molto spesso sono finte, e anzi non fanno altro che danneggiare sia il bambino che la famiglia. Grazie. Che appunto indebitandosi costringe tutti a lavorare. Grazie Francesco Caruso. Fermiamoci un istante nella frenesia della vita di tutti i giorni. Fermiamoci. 45508, questo è il numero di telefono che bisogna fare per aiutare a salvare questi bambini. Chiudiamo con una sottolineatura che non è nostra, la citiamo dal Financial Times. Ogni anno vengono rapiti in Cina 20.000 bambini. Scriviamo anche queste cose, le vogliamo ribadire, oltre che ricordare che la Cina ha superato il Giappone come una delle più grandi economie del mondo. Abbiamo finito per oggi. Vi ricordo che ferrybot@radio24.it è l'indirizzo dove potete segnalare le vostre iniziative, che andiamo in onda tutti i sabati alle 6.50 e alle 13.55, la domenica alle 6.50 e alle 14 con l'edizione dedicata alla settimana successiva. Grazie ad Anita Panizza redazione e a Pietro Lacorte in regia. A risentirci.